Ciao a tutte e tutti e bentornati e tornate al Uru, la trasmissione di musica africana e notizie dal continente africano che va in onda in diretta alle 21:30 venerdì sera. Oggi 57esima puntata, quindi insomma siamo un pezzo avanti e stasera parliamo di Sudan. Sì, il Sudan è un po' una terra di mezzo, o se si vuole dall'altro punto di vista, un punto di incontro. E quindi da un lato, o meglio, da una parte le sonorità più arabeggianti, sia da un punto di vista vocale ma anche da un punto di vista musicale, quindi con un uso molto particolare del oud, questo strumento che è diciamo un po' lo strumento tradizionale, lo strumento più utilizzato nella parte magrebina dell'Africa e quindi anche nella parte nord del Sudan, cioè la Nubia, che è sostanzialmente una regione appunto a nord di Khartoum che confina con l'Egitto e che appunto vede nella controparte egiziana, cioè nell'Egitto del Sud, sempre l'altra regione chiamata Nubia, di cui appunto difficilmente si colgono le differenze. Le differenze in questo caso sono, cioè, la diversità tra Sudan del Nord ed Egitto del Sud è stata soltanto sostanzialmente da un confine. La Nubia è all'interno di ambedue gli stati, in questo caso l'Egitto, il Sud Egitto e il Nord del Sudan, e per quanto riguarda la cultura e in particolare chiaramente la musica, i suoni, le parole che accompagnano i suoni, più o meno ci siamo, ecco, più o meno sono simili. E quindi gran parte della musica sudanese è caratterizzata appunto da questa musica tradizionale o comunque un'evoluzione della tradizione musicale nubiana. Da questo punto di vista appunto parliamo, il primo pezzo che mandiamo è appunto di Mustafa al-Sunni. Mustafa al-Sunni, che è un musicista sudanese, nato a Rafa, una città sul Nilo Azzurro, vicino a Khartoum. Mustafa al-Sunni si esibisce con un repertorio di canzoni abbastanza diverse, dalla tradizione classica di Ajiba, dove i poeti lavoravano con i musicisti per mettere le parole alle melodie tradizionali, a Turat, e cioè le canzoni popolari che si tramandavano e si tramandano da generazioni e che sono associate al rito delle cerimonie di passaggio, centrali per la vita sudanese. Al-Sunni spesso lavora con suo cugino, che appunto è un rispettato poeta, e cioè Bashir al-Kamar, perché appunto ha una grossa attenzione alle parole oltre che alla musica. Di lui, di Mustafa al-Sunni, ci ascoltiamo Jamil Ya Mudal. صار منحول والمنام يتقلل طرفي ليه رؤياك دمه كبر وهلل هوي هوي جميل يا مدلل قل لي ليه مسحوق مرارة والأديب في الناس ليلي طاب يتهبل عذابي يدوم بين أني عزيز خفت في المستقبل أهدي ليك الروح وانت بي ما تكبل أكون مظلوم هوي هوي جميل يا مدلل قل لي بل علي لا تجهل بل علي لا تجهل يا حلو النغمات يا لذيذ المنهل عذاب يلوم ناري حارق الجوف والمدامع تبهل بعد هذا الحال لطفايرك مزدال لطفايرك مزدال يا رشيق القامة والمعاطف يدل عذاب يلوم القوام ممشوق والمعاطف يدل دلم يخلي ليك ربي لا يتبدل كمان قلبي صار ليك منزل انت فوق للقوس والسماء العازل على ودني يوم هوي هوي جميل يا مدلل قل لي وسحوق مرام اتحلل على يدوم Appunto, questo è un pezzo, questo di Mustafa Al-Sun, in cui è preponderante dal punto di vista dell'uso degli strumenti, cioè lo strumento utilizzato, l'oud, oppure chiamato anche oud shark, uno strumento cordofono, membro della famiglia degli uti, a manico corto. Molti probabilmente l'avranno visto, si hanno visto del video, dei concerti dal vivo di alcuni cantanti, di alcuni musicisti, specialmente l'Afri Maghreb, per esempio, nella band di Cheb Khaled, per esempio, c'è un uso veramente possente, ecco, della strutture. E appunto è uno strumento a manico corto, una cassa piriforme, nel senso una cassa modulata, con fori e decorati a rosette. Al-Oud, tra l'altro, in arabo significa legno, proprio perché appunto il legno è certo di tutti gli strumenti, ma l'Oud è ancora... il legno è ancora il materiale utilizzato per l'oud. È un'evoluzione del barbad, un antico strumento persiano preislamico, e tra l'altro era utilizzato anche nella Spagna meridionale, perché appunto cultura islamica, che appunto era chiaramente la cultura preponderante, in quanto fino al X-XII secolo la Spagna era la Spagna del Sud era sotto dominazione islamica, e poi successivamente appunto alla Spagna è stato importato anche in Europa. Il numero di corde di questo strumento è variabile, solitamente sono 11 distribuite in 5 coppie con una cordatura con un bordone singolo. Una volta le corde erano di seta o di budella, attualmente chiaramente sono quelle di nylon. E appunto questo wood, se ascoltate la musica magrebina, Marocco, Tunisia, ma anche Algeria, ma soprattutto Egitto, o meglio Nubia, quindi Egitto del Sud, come abbiamo detto precedentemente, il Sudan e Nubia, Sudan del Nord, ecco che la stragrande maggioranza dei pezzi musicali, dei pezzi suonati, sono accompagnati dal oud. E il 26 giugno ricorre un anniversario, il congresso di Cliptown. Nel 1955 a Cliptown sudafricani bianchi, neri, indiani e metici adottano la Carta della Libertà e il manifesto della South African Congress Alliance, il fronte delle organizzazioni anti-apartheid, tra cui figura anche l'African National Congress. Il Sudafrica appartiene a tutti quelli che ci vivono, neri e bianchi. Nessun governo può, a giusto titolo, vantare alcuna autorità se questa non si basa sulla volontà di tutto il popolo. Questo è il primo articolo del Freedom Charter. Il prossimo pezzo è un pezzo zar, non è un pezzo, è un pezzo registrato a Omdurman, che è Omdurman, allora Khartoum, che è la capitale del Sudan, è divisa sostanzialmente in tre, è composta da tre città, Khartoum stessa appunto a sud, un'altra città a nord e Omdurman sulla riva sinistra del Nilo, perché appunto il Nilo attraversa Khartoum ed è la parte più popolare e quella più antica di Khartoum appunto. E quindi Omdurman è sostanzialmente il cuore di Khartoum, sia da un punto di vista abitativo, da un punto di vista popolare e quindi conseguentemente anche da un punto di vista culturale e conseguentemente ancora da un punto di vista musicale. Lo zar è un termine usato per descrivere una forma di possesso degli spiriti comune nell'Africa settentrionale, nell'Africa orientale e in alcune società medio orientali. Sebbene queste regioni condividano alcune somiglianze culturali derivanti dalla loro storia di schiavitù, in questi luoghi lo zar varia in prevalenza rispetto al contesto sociale. E appunto nel Sudan, e quindi in questo caso Omdurman, è una forma, diciamo, di una sorta di candomblé brasiliano sostanzialmente, anche se poi non è assimilabile, perché appunto in questo caso non si sta parlando, non si parla di religioni, ma semplicemente di evocazioni da parte di soggetto e soggettività che insieme cantano per liberarsi, diciamo così, da quello che sentono, da problemi, diciamo così, che sentono, che hanno interiormente. È molto difficile trovare informazioni sullo zar, molto spesso, anzi quasi sempre, chi pratica questa pratica non tende a divulgarla, sia da un punto di vista come dire, della voce, del passaparola, sia dal punto di vista di testi scritti oppure di regolamenti, di interpretazioni e via dicendo. Quindi le notizie trovabili, a meno che uno non partecipi direttamente a uno zar, sono veramente, veramente pochissime. Noi vi facciamo ascoltare uno zar, appunto una registrazione di uno zar registrato ad Omdurman alcuni anni fa. Thank you. apicoltori italiani, alle prese con un periodo non facile, hanno sviluppato una raffinata conoscenza del mondo delle api. Oggi la loro preziosa competenza e passione è messa a disposizione dei piccoli produttori di miele in Africa. Il 2017 sarà ricordato come l'annus horribilis dell'apicoltura italiana. A conti fatti, la produzione del miele nostrano è crollata del 60%. Colpa del clima impazzito, freddo anomalo seguito da improvvise ondate di calore, che si è accanito sui fiori e sugli alveari, già in sofferenza per il fuoco incrociato di pesticidi e parassiti esotici. Se la crisi del settore, un comparto d'eccellenza dell'agroalimentare nazionale, minaccia il lavoro di circa 45.000 apicoltori, dall'Africa invece arrivano dolci notizie. Infatti, a sud del Sahara ci sono popoli che da lungo tempo fanno del miele una preziosa fonte di nutrimento e di reddito. Per esempio, nelle foreste del Camerun e del Congo, i pigmei, baca e bambuti si arrampicano in cima agli alberi secolari e raccolgono il miele selvatico negli alveari nascosti tra il fogliame. Con sé portano dei tizzoni ardenti, il cui fumo scaccia le api, e un cesto fatto di foglie e liane in cui depositano i gustosi favi. Nella Repubblica Centroafricana, invece, i gbaya seguono i richiami di un minuscolo picchio, uccello goloso di larve di api, che indica con il becchettio sui tronchi la presenza dei favi che sono quasi invisibili all'uomo. Per difendersi dalle punture delle api, gli uomini si ricoprono con una corazza di erbe, foglie di palma e paglia e si strofinano sul corpo una particolare corteccia che emana un odore repellente. In Etiopia il popolo Benna si è specializzato nella produzione e nella vendita del miele che viene prodotto dalle api in apposite cassette di legno posizionate tra i rami spinosi delle acace. La raccolta avviene di notte, quando gli insetti dormono e sono meno aggressivi. Con più di 10 milioni di alveari, l'Etiopia, infatti, è il quarto esportatore di cera per il mercato mondiale e il nono produttore di miele. E proprio in questi paesi sono nati, grazie anche all'associazione Slow Food, i primi presidi finalizzati alla promozione dell'apicoltura locale. Nei pressi di Bukro, cittadina del Tigray, è stato costruito un locale polivalente per la smielatura, la vendita e la degustazione dei prodotti derivanti dalle api. Soprattutto è stato steso un disciplinare che garantisce le regole di produzione, garantendo così autenticità e qualità al miele. Un tempo, prima dell'istituzione del presidio, gli apicoltori vendevano il loro prodotto sfuso a intermediari, che spesso lo mescolavano a prodotti di scarso valore, rivendendo così un miele che non aveva più niente a che vedere con l'originale. Più a sud, invece, nella regione dell'Oromia, l'intervento sempre di Slow Food a sostegno dell'associazione degli apicoltori del vulcano Venci ha permesso di ottenere un miele puro, riconoscibile e di ottima qualità, adatto per la vendita. Mohamed El Amin è un eroe popolare per la gente del Sudan, per la sua voce maestosa e per il gioco di oud, quello che riesce a fare appunto con queste 11 corde dell'oud. È un po' in là con le anime, è ancora considerato ancora un rivoluzionario solitario, certamente tuttora un brillante compositore e arrangiatore, non è uno scrittore prolifico, conseguentemente i pezzi musicali che lui propone, perché appunto tutti i pezzi che lui incide o che lui canta sono derivanti da composizioni che ha scritto lui stesso, non sono tante, e anche se molto spesso riutilizza oppure canta, fa riarrangiamenti di vecchie canzoni che comunque suonano fresche, suonano ancora attuali. Mohamed El Hamin è nato a Wad Medan nel Sudan centrale nel 1943, ha iniziato a studiare l'oud all'età di 11 anni, ha scritto le sue prime composizioni a 20 anni, ha continuato ed è tuttora presidente onorario, ed è ritornato ad essere, diciamo, presidente onorario della Società degli Artisti e Compositori Sudanesi, spesso nei guai per aver provocato, per aver cantato, per essersi espresso contro la dittatura militare, tant'è che è stato imprigionato dal regime di Nimeiri negli anni 70. Per questo motivo nell'89 si è trasferito al Cairo proprio perché per i suoi continui scontri con il fronte islamico nazionale e quindi conseguentemente la impossibilità di portare avanti le sue idee sia da un punto di vista musicale sia da un punto di vista politico. Comunque è ritornato a Khartoum nel 94 e ha continuato a mantenere questa sua sorta di una sorta di coscienza a favore del popolo, e proprio per questo appunto è considerato un rappresentante popolare della gente, da parte della gente del Sudan. Di lui ci ascoltiamo Habibi. قلبين ضماهم غرام سلام قلبي طمه غرام اتنين دنياهم سلام محال يحصل خصام بيني وبين حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي عهد فيه وعهد فيه ريد ليه وريد ليه أوصي فيه يوصي فيه نصبر كمان نصبر شوية نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلا خلاص كملنا أملنا ونعيش بلايا نعيش بجنة نعيش بجنة يتم منار نفرح أملنا ونعيش بلايا نعيش بجنة لا يقولوا قالوا لا يقولوا قلوا نصبر كمان نصبر شوية نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلنا خلاص قبلنا يتمنا يفرح أملنا ونعيش بلانا نعيش بجنة يتمنا ونعيش بلانا نعيش بجنة بلانا نعيش بجنة لا يقولوا كان لا يقولوا كل حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ritornando al miele africano in Tanzania sono le donne del villaggio per esempio di Ngurdoto che sorge ai piedi del Monte Meru che si dedicano da sempre alla raccolta di un miele molto particolare perché prodotto da api nere senza pungiglione. Fino a 60 anni fa questo miele era raccolto in grandi quantità dagli alveari che si creavano naturalmente nei tronchi secchi, nelle cavità del terreno, nei cespugli e negli alberi. Poi la crescente deforestazione e l'inquinamento hanno ridotto drasticamente la produzione. Gli alveari tradizionali sono ricavati da sezioni di tronchi appesi ai tetti delle case o appalizzate o ai rami più alti di alberi da frutto. Normalmente si acquistano già abitati dagli sciami presso alcuni giovani della zona che hanno ereditato dalla famiglia la conoscenza per la loro fabbricazione e per la gestione degli sciami stessi. Sono loro che si inoltrano nelle aree boschive attorno al villaggio, individuando le specie di apre senza fungiglione. Da ogni alveare si ricavano circa 3-4 litri di miele mille fiori, dal sapore agrodolce e con note agrumate, che possiede proprietà medicinali, soprattutto per la cura del sistema respiratorio o per i dolori mestruali. Non solo, nella remota regione tanzaniana di Mbita, l'organizzazione non governativa CEFA ha realizzato un vero e proprio centro di produzione e lavorazione del miele, dotato di apiari, macchine smielatrici e altre attrezzature necessarie per sviluppare l'apicoltura. Che questo è importante anche perché consente di integrare l'alimentazione della popolazione locale con zuccheri che sono carenti nella dieta. Sempre in Tanzania, sull'isola di Zanzibar, ma anche in Zambia, nel campo profughi di Meheba, i volontari della ONG italiana MLFM hanno iniziato a introdurre e diffondere metodi di apicoltura più moderni tra le cooperative locali, migliorando le tecniche di lavorazione e la qualità del prodotto finale. In Kenya, invece, altre organizzazioni sono intervenute a favore del popolo Jiek, che vive nella zona della foresta Mau e vicino al monte Elgon. L'apicoltura è la principale attività degli Jiek, il cui miele è conosciuto da secoli per la sua prelibatezza. Un tempo la produzione era svolta esclusivamente dagli uomini, in particolare dagli anziani della comunità, gli unici autorizzati a costruire alveari e a raccogliere il miele per non danneggiare le piante. Le arnie erano quelle tradizionali, grandi cilindri di cedro rosso, un legno che resiste sia ai parassiti che al tempo, appesi ad alberi ad alto fusto. Oggi si sono avvicinate all'apicoltura anche le donne, che usano però arnie collocate a terra, mentre gli uomini continuano ad arrampicarsi sugli alberi con l'aiuto di liane e raccolgono il miele dopo aver fumigato le arnie bruciando del muschio essiccato. Le attività finalizzate a migliorare la produzione sono state portate avanti assieme a una cooperativa che praticamente riunisce 12 gruppi di apicoltori. In Uganda, infine, l'apicoltura ha avuto un grande sviluppo negli ultimi 10 anni grazie a un'impresa sociale fondata da un australiano, cioè Malaika Haney, che ha avviato numerosi alveari in tutto il paese e fornito ai produttori le attrezzature e le conoscenze necessarie a ricavare il miele, miele dal sapore intenso e prelibato e i suoi derivati, come la cera e la propoli, che oggi vengono venduti a Kampala, la capitale ugandese, e in dozzine di paesi vicini. Abdelkarim Al-Kabli è un cantante, poeta, compositore e attivista per i diritti umani sudanese, appunto, è noto per delle canzoni che sostanzialmente riprendono, diciamo, in cui riesce appunto a mischiare, a mettere insieme canzoni popolari del nord, dell'est e del centro del Sudan, oltre chiaramente del Sud Sudan. Lui tra l'altro è nato nella città di Port Sudan nel 33, Port Sudan è appunto nel Sudan, e si è successivamente trasferito a 16 anni a Khartoum e da lì ha iniziato la sua carriera musicale dopo aver appunto imparato il liuto, in questo caso da autodidatte. Lo suona con una facilità talmente ingannevole, ecco, perché sembra sia facile, ecco, suonare questo strumento a 11 corde. In realtà è che è una tecnica che ha affinato nel tempo, da quando appunto all'inizio degli anni 60 ha iniziato a cantare, e ha iniziato appunto a cantare una prima apparizione al concerto con una composizione particolare, canzone per l'Asia e l'Africa, al National Theatre di Omdurman, appunto, che è la zona popolare di Khartoum. E attualmente al Kabli è una sorta di enciclopedia ambulante del patrimonio musicale del suo paese. E livello avanzato del suo background culturale ne fanno una sorta di icona, ecco, per chi segue la musica sudanese e poi i suoi stessi conterranei. E appunto non si limita al tema delle sue canzoni, non sono soltanto canzoni d'amore, ma il suo repertorio include anche canzoni, pezzi legati alla realtà politica e sociale sia sudanese che riguardanti appunto tutta l'Africa. E appunto il suo pezzo Canzone per l'Asia e l'Africa ha costituito una sorta di ispirazione durante i decenni delle lotte di liberazione africane, le richieste di pace e giustizia che si stavano sviluppando e che hanno continuato a svilupparsi per gli anni 60-70 nel continente africano. La sua attività per i diritti umani l'ha portato anche a comporre e a cantare pezzi per le cause delle donne, bambini, dei giovani, e un approccio, diciamo, in particolare distintivo verso le persone ordinarie, nel senso che nei suoi pezzi molto spesso non viene rievocato l'eroe oppure la superstar, la star, ma le persone della strada, le persone popolari. E quando è stato insignito, diciamo, da un premio prestigioso dalla Niala University della Sudan, University, sono le due università principali del Sudan, lui ha tenuto a ribadire sì, questo era un onore per lui, ma più che altro la sua musica era così bella e così importante perché derivava dalla varietà, dalla diversità della natura del popolo sudanese, sottolineando l'importanza di appartenere a un paese colorato e che i confini geografici non dovrebbero essere delle proibizioni e non dovrebbero privare le persone dei loro affetti. Di Abdel Karim Al-Kabli ci ascoltiamo Kabas. يا داب الوعر قلبك صميم من حجر يا دود الوعر كباس درايز ومحبر يا داب الوعر قلبك صميم من حجر يا دود الوعر زينب تجر النم زينب زينب تجر النم زينب تجر النم فوق دور العواصع تلبي كرفة الدم يا داب الجبال في محكر بواش حاشاه وما بنزم محكر بواج حاشاه ما بنزم فاتور الرجال جرعة عقود السم يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر كباس درايز ومحبر يا داب الجبال قلبك صميم حجر يا دود الوعر تجر القول زينب تجر القول زينب تجر القول زينب تجر القول فوق شلب العين الوافر الشمول يا داب الجبال بتصميم من حجر يا دود الوعد الوافر الشمبول الوافر الشمبول يا جبل الدائرة الما بنطلع له زول يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعد كباس درايز حبر يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر غنيت بغباش يا مطر السواري هلاك هبوب الشاش يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر غنيت بغباش يا مطر السواري قالك هبوب الرشاش يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر يا قصبة فراش اللي طلع قصاص قصبة فراش اللي طلع قصاص سيد زين الجبال قبل الناس تعف الناس يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر كباس درايز ومحبر يا باب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر عايزهم حبر يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر كباس ترى عايزهم حبر يا داب الجبال قلبك صميم من حجر يا دود الوعر Eccoci qua, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Wombat e di Uru. Un'avvertenza: a luglio proporremo le repliche delle passate puntate e lo stesso varrà per le repliche che saranno come sempre la domenica alle 23 e il lunedì alle 8 e mezzo del mattino. Eh sì, Festival au Desert a Firenze, ne abbiamo già parlato, questo Festival au Desert si tiene a Essacane, è un paesino del Mali nella zona Tuareg, che è una sorta di gemellaggio, fa sì che appunto ci sia da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio una propagine, un'articolazione del Festival Deserte a Firenze, in questo caso alla manifattura Capacchi, che tra l'altro sarebbe un bellissimo luogo per ospitare queste attività e in generale l'attività culturale o comunque un bene pubblico che potrebbe essere utilizzato in questo senso, ma che la politica e l'amministrazione comunale ha fatto sì o farà sì che venga privatizzato e quindi destinato ai profitti dei privati. Comunque sia, tuttora non lo è, e appunto da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio il Festival Desert a Firenze, con in particolare la fanfare del Heyon Le Brass Band del Benin, che vi abbiamo fatto ascoltare alcune puntate di Uru fa. Domenica 1 luglio Baba Sissoko maliano, sempre maliano, e Ballake Sissoko, che si esibirà lunedì 2 luglio, e infine questo nuovo recente, almeno dal punto di vista della formazione, gruppo musicale, Le Fil di Eligadad, sono nigerine, sono tre donne con una particolarità veramente veramente strana, veramente buffa da questo punto di vista, nel senso che vi suona l'unica chitarrista donna del Niger e un'altra fil dei Ligadadi, appunto, in questo paese nigerino situato nel deserto del Tenere, che suona questo strano strumento, una sorta di pallone immerso nell'acqua che viene percorso, da cui escono dei suoni veramente veramente inconsueti, ecco, da questo punto di vista. Il festival è gratuito, quindi potete andare ad ascoltare questi concerti tutte le sere gratuitamente. Torniamo al Sudan con Abdel Aziz Al Mubarak, nato a Wad Madani nel 1951, ed è un cantante sudanese molto popolare ed è noto per aver guidato una grande band la cui musica è basata sulla musica tradizionale araba, ma influenzata da vicino dal reggae e dal ritmo dei blues americani. Oltre a rilasciare molte registrazioni di cassette, naturalmente, in Sudan, e a suonare a molti matrimoni e altri concerti, spesso si esibisce come solista, naturalmente suonando l'oud. Di lui ci ascoltiamo Na Nu Na Nu, Abdel Aziz El Mubarak. So much of money. شفي السمك ستة بنت نار نعنى نغا نونا نونا نايك عجلين قدعين نعنى pezzo che vi facciamo ascoltare è un ensemble femminile, le Honduran Women's Ensemble, che è appunto formato da donne del quartiere di Khartoum, quartiere popolare di Khartoum di cui vi abbiamo parlato precedentemente. È una canzone politica, diciamo, e il titolo è Daloka Bet et Mal. Sì, baobab secolari. Questo albero è considerato l'icona della savana africana e molti stanno morendo in circostanze misteriose. Alcuni scienziati hanno scoperto che la maggior parte dei più antichi e grandi baobab africani sono morti negli ultimi 12 anni. Il baobab è un albero che può raggiungere dimensioni enormi e può vivere centinaia se non migliaia di anni, e i ricercatori provenienti per lo più da università africane ma anche rumene e statunitensi affermano che la perdita di questi alberi è un evento di una portata senza precedenti e purtroppo ancora non se ne conoscono le cause. È sospettato che la scomparsa di questi baobab possa essere associata almeno in parte a significative modifiche delle condizioni climatiche che colpiscono in particolare l'Africa australe, così come è stato affermato dal team che è guidato appunto da un insegnante, da un professore di università rumena. Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per supportare questa supposizione. Dal 2005 i ricercatori stanno visitando gli alberi antichi, questi alberi antichissimi in tutta l'Africa meridionale, e inaspettatamente hanno scoperto che 8 dei 13 baobab più vecchi e 5 dei 6 più grandi erano morti completamente o quelle parti più antiche erano cadute. C'è da notare appunto che gli alberi baobab hanno molti steli e tronchi, spesso di epoche diverse, ma in alcuni di questi casi tutti i gambi, gli steli erano morti improvvisamente. Gli alberi sono morti o stanno morendo, si trovano in Zimbabwe, Namibia, Sudafrica, Botswana e Zambia, e hanno tutti tra i 1000 e i 2500 anni. Ascoltiamo adesso Abdel Gadir Salim, nato nel villaggio di Dilling, nella provincia di Kordofan, tra le montagne Nuba, nell'ovest del Sudan. Salim ha studiato musica all'Istituto Musicale di Khartoum, con Lud, suonando Lud naturalmente. E lui non, raramente i testi delle sue canzoni sono sue, prende spesso testi dai più importanti parolieri sudanesi e le sceglie di solito con naturalmente politicamente consapevoli, che parlano di vita quotidiana. Ha iniziato con i ritmi provenienti da matrimoni, danze, spesso in stridenti 6-8 battiti. Alcune di questi di queste battiture sono modellate sull'andatura dei cammelli. Le sue canzoni danno una preziosa visione della cultura sudanese. Di lui ci ascoltiamo Mal Va Itagab, Abdel Gabir Salim. واحتجب ودع على غضب ما لا واحتجب ودع على غضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب يشرح السبب عاد به رضا عتبه رضا ليته عتب على بيننا على بيننا على بيننا واشيا كذب أو مفندا أو مفندا يخلق الريب ما لا ما لا ما لا واحتجب ودع على غضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب يشرح السبب كلما مشى كلما مشى أخجل القطب بين عينيه بين عينيه بين عينيه والمها نسب ما أخده ما أخده شفع اللهب ما لا ما لا ما لا واحتجب ودع الغضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب منتخب يا يا اللحن منتخب يا يا ما حد المها مثله طرب يا مثله طرب يا يا رايعا كما شاء في الكتب يا شاء في الكتب ودع على غضب ما لا واحتجب ودع على غضب ليت هاجري ليت هاجري يشرح السبب. Questo era l'ultimo pezzo. Vi ricordiamo che a luglio non ci saranno le dirette, ma alle stesse ore potete ascoltare le repliche delle trasmissioni che abbiamo fatto e ci risentiamo quindi presto. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao.